Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Chiaramente siamo alla vigilia di quella che dovrà essere la presentazione della legge di stabilità del governo domani, l'appuntamento previsto. Voci, come sempre avviene, devo dire, a dire il vero forse anche meno di altre volte, però insomma voci di una riduzione della spending review. Noi abbiamo fatto notare, a mio avviso in tempi non sospetti, che sulla spending review c'era un silenzio assordante rispetto agli obiettivi che si era posto Cottarelli, e poi il testimone preso da Gutgeld, oltre che un silenzio anche onestamente una lentezza. Detto ciò, circolano voci che la spending review non dovrebbe più portare a 8 miliardi in meno di costi, ma a 5 miliardi, il che vorrebbe dire che rispetto all'obiettivo iniziale di 10-12 miliardi l'obiettivo si è dimezzato. Tanto che si ipotizza, l'abbiamo cercato, Roberto Perotti non ci ha risposto, che uno dei due commissari della spending review assieme a Yoram Gutgeld, Roberto Perotti, avrebbe addirittura messo sul tavolo le sue dimissioni. In realtà, da quello che capiamo, ma ne parleremo più avanti, più che a una vera spending review, la revisione della spesa, quando è fatta bene, come avviene nei paesi anglosassoni, non solo, ha due caratteristiche. Questo non lo dico io, ma lo dicono tutte le spending review. La prima, che i tagli sono fatti in maniera mirata, si chiama fine tuning, quindi aggiustamento dettagliato. Non si va a fare tagli lineari, ma si va a tagliare alcune aree anche in maniera molto corposa, e altre non le si tocca proprio, o addirittura si danno degli aumenti di stanziamenti. E il secondo aspetto è che le spending review, cito il modello messo in pratica da Londra, dalla Gran Bretagna, utilizzando quel famoso software italiano, abbiamo avuto ospite più volte chi l'ha venduto, l'altra caratteristica è che quando tu fai un taglio di spesa lo rendi permanente, ossia è fatto in maniera così mirata, così studiata, che non è che dopo 2-3 anni ti esploda e quindi sei costretto a fare una spesa, a riportare quella spesa al livello di prima. Perché questo? Perché se tu fai dei tagli lineari e comprimi, un po' come se nel bilancio di una famiglia uno facesse una spending review dicendo a sua moglie o insomma al suo compagno e al suo marito: guarda, dobbiamo tagliare tutto del 10%, ed è chiaro che alcune cose le tagli solo temporaneamente del 10%, perché se riduci del 10% le spese, faccio per dire, di abbigliamento, a un certo momento o giri nudo o dovrai comprare qualcosa. Se riduci il 10% le spese base di carattere alimentare, è chiaro che prima o poi dovrai tornare a spendere. Altra cosa è ridurre del 30% spese che ti sei accorto che sono poco produttive, lussi che non ti potevi più permettere. Quelli lì, una volta che li tagli, se sono appunto mirati, non tornano più. Ecco, in Italia abbiamo avuto invece l'esatto opposto: tagli lineari già dai tempi del ministro Tremonti, quindi il meno 3%, il meno 2% per tutti, che fanno morti e feriti sui virtuosi e premiano di fatto i non virtuosi, perché un taglio lineare può essere insopportabile per chi ha già fatto numerosi tagli e sta lavorando nel massimo di efficienza possibile, ce ne sono. Abbiamo visto di nuovo dei tagli alla sanità, anche qui bisognerebbe aprire un capitolo, una puntata solo per questo. E invece risultano quasi gratificanti per chi sta sprecando soldi e potrebbe avere dei tagli del 10, 20, 30%, il 3% diventa un regalo. Ed è il motivo per cui molto spesso noi, dopo i tagli di spesa in un anno, abbiamo dovuto riportare quelle spese a livello 100 dopo pochi anni, perché non era possibile comprimerle, sennò venivano meno i servizi base, i servizi di welfare. Lo dico perché il governo starebbe pensando a tagli lineari del 3% al budget dei ministeri. È chiaro che poi ogni ministero ha la responsabilità di dire: beh, alcune spese di consulenza, di rappresentanza posso tagliarle, non posso tagliarne altre. Però e anche i proventi della voluntary disclosure, quindi del rientro dei capitali nei termini previsti prima che scattino le sanzioni, coprirebbe i minori risparmi sulla spesa. E poi c'è tutto il capitolo dei margini di deficit che Bruxelles potrebbe concederci. Faccio notare che ha bocciato quelli spagnoli. La Spagna però viaggiava su altri livelli di deficit, dal governo si dice una nostra manovra molto diversa. Vedremo, e vedremo appunto se si va verso una direzione di un tipo o dell'altro. Ancora, per quello che riguarda i titoli invece in borsa, oggi la borsa perde lo 0,77%, Parigi meno 0,60%, Francoforte meno 1%, Londra meno 1%, Dow Jones meno 0,50%, euro su dollaro 1,1430. I titoli, e quindi il rafforzamento dell'euro su dollaro in queste ultime sedute. Moncler perde il 3,70%, anche oggi pesano i dati, soprattutto i dati del calo, del crollo delle importazioni cinesi registratisi ieri. E dicevo, Moncler e il lusso debole a causa della Cina, meno 3,74% Moncler, meno 3,50% anche Yoox Net-a-Porter, poi cedono Tod's l'1,50%, più contenuta Luxottica perde lo 0,96%, Ferragamo invece anche positivo di un leggero 0,15%. Tra i titoli in sofferenza oggi cito anche Telecom Italia, perde il 2,70%, Buzzi Unicem il 2,40%, Azimut il 2,20% di calo, Atlantia il 2%, Mediaset meno 1,80% come Mediolanum, e Generali Finmeccanica meno 1,60% come appunto Tod's e Unipol. Enel Green Power più 0,90%, Enel più 0,60% come Ansaldo STS. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo in apertura anche di credito bancario, o meglio, dei dati discordanti che ci vengono forniti da una parte, discordanti, insomma, che non sembrano andare nella stessa direzione, da una parte dall'ABI e dall'altra dalla Banca d'Italia, ma soprattutto cercheremo, come promesso, di dare anche qualche consiglio utile e concreto ai piccoli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, cioè a tutti quelli che hanno oggettivamente più difficoltà a ottenere prestiti bancari e su cui le medie diffuse anche dall'ABI sono medie di trilussa. E cioè, un conto è dire sono leggermente aumentati o sono aumentati i prestiti bancari, poi bisognerebbe scorporare e vedere quali sono andati a imprese medio-grandi, già con utili e beni internazionalizzate, quali sono andate invece ai piccoli e medi imprenditori, fermo restando che nessuno vuole che le banche eroghino senza sana e prudente gestione. Ce ne occupiamo in apertura, rapidamente le altre notizie in breve. Visto che parlavamo di Cina, rallenta l'inflazione in Cina, e uno dice una buona notizia, insomma è una buona notizia, ma segnala anche il rallentamento della domanda cinese, come da noi, e quando l'inflazione è troppo bassa vuol dire che non ci sono consumi, vale anche per la Cina. A settembre l'indice dei prezzi al consumo ha fatto più 1,6% contro il 2% di agosto, e l'indice dei prezzi alla produzione è sceso del 5,9%. Il target e l'obiettivo del governo cinese è di un'inflazione intorno al 3%, e di un'inflazione vicina anche lì al 2%, ma di un obiettivo massimo di un'inflazione intorno al 3%. A questo punto la banca centrale cinese potrebbe avere spazio per stimolare ulteriormente il credito, anche e nonostante i 5 tagli di tassi di interesse che la Banca Popolare Cinese ha operato dallo scorso novembre. Buono il dato invece che arriva, più che buono, dalla Gran Bretagna, dove la disoccupazione scende al 5,4%, tornando ai livelli pre-crisi, il minimo dal 2008, e quindi la crisi è completamente scomparsa in Gran Bretagna come effetti sull'economia. La Germania invece ha rivisto al ribasso la sua crescita sul 2015, più 1,7% contro l'1,8%. Non sappiamo se sia la vicenda Volkswagen o il rallentamento cinese, a mio avviso forse più la seconda che il primo, visto che la Germania si era molto spostata verso le esportazioni nei confronti della Cina e dei paesi emergenti. Dicevo, tasso di crescita all'1,7%, per il 2016 la Germania più 1,8%. Vicenda Volkswagen. Intanto la Volkswagen ha perso un altro top manager, Winfried Wahland, un capo della Skoda, che è di proprietà della Volkswagen, ha abbandonato il gruppo. Avrebbe dovuto assumere la guida della nuova divisione nordamericana di Volkswagen, che riunirà i mercati Stati Uniti, Canada e Messico, ma evidentemente le cose non sono andate come dovevano. Nel frattempo il numero uno di Volkswagen Italia, l'amministratore delegato Massimo Nordio, in audizione al Senato e alle commissioni ambiente industria, ha detto che l'effetto delle vendite per ora almeno ha un il Dieselgate ha un impatto modesto sulle vendite, la Volkswagen non sta registrando cali tali da definirsi preoccupanti, anche se il marchio Volkswagen è quello che sta avendo il maggior impatto anche per una certa influenza mediatica. Adesso io capisco tutto, non dite però che la colpa è dei giornalisti se truccate le centraline di emissione delle macchine. Nordio continua: sono tutti confermati gli investimenti in Italia, non cambierà il piano di investimenti in Italia, e ha anche riferito di aver scritto una lettera al premier Matteo Renzi, ai ministri Padoan e Guidi, in cui viene assicurato l'impegno di investimenti nel nostro paese. Sospesi dalla rete di vendita in Italia 1300 veicoli in via precauzionale, ha detto sempre Nordio, finché non verrà fatta chiarezza, mentre i veicoli coinvolti in Italia che circolano sono circa 640.000. Poi ha continuato: non c'è nessun impatto sulla sicurezza dell'auto, questo l'abbiamo sempre detto anche noi. Ha chiesto scusa ai clienti, lavoriamo per riconquistare la fiducia. E devo dire che anche Confindustria Torino, per voce del suo presidente Licia Mattioli, ha fatto notare che la situazione è preoccupante quanto a Volkswagen. Ad oggi però le imprese, che sono quasi tutte, non dico quasi tutte, ma insomma una buona parte nell'area proprio del Piemonte, che sono imprese che anni fa erano fornitori o subfornitori di soldi del gruppo Fiat, in realtà hanno diversificato negli ultimi 10-15 anni e sono fornitori e subfornitori di componentistica auto anche e soprattutto per la Germania. Ripeto, 4 miliardi complessivamente quello che l'Italia esporta in componentistica auto verso le case automobilistiche tedesche. Ebbene, Licia Mattioli ha detto che per ora le imprese non hanno registrato alcun tipo di cambiamento nei fatturati, negli ordinativi. Speriamo che la situazione si mantenga così. È intervenuto invece alla Camera il premier Matteo Renzi, in qualche modo un preludio di quello che potrebbe essere la legge di stabilità. Soprattutto sappiamo che, ormai lo sappiamo tutti, che questa legge di stabilità per reggere deve una grossa componente alla flessibilità che ci darà eventualmente l'Europa. In termini d'Europa, Renzi ha messo le mani avanti, ha detto: noi siamo gli unici a rispettare le regole di stabilità, ci presentiamo in Europa con la curva del debito che nel 2016 torna a scendere dopo aver fatto le riforme. Se l'Italia continua a fare quello che sta facendo, siamo paradossalmente gli unici o quasi dalla parte della stabilità. Ecco perché ci presentiamo, diciamo, con la coscienza pulita, aggiungo io. E poi Renzi ha invece anche sottolineato che la politica economica europea in questi anni non ha funzionato e l'Italia avrà credibilità per chiedere un cambiamento della politica economica europea se appunto avrà fatto le sue di riforme. La politica economica europea di questi anni non ha funzionato. Possiamo dirla come ci pare. È stato fondamentale il ruolo della Banca Centrale Europea per consentire di avere non soltanto il QI ma una stabilità. Date le regole del gioco, la Banca Centrale Europea ha fatto un lavoro meraviglioso. È stato importante il lavoro di risanamento che tante e tanti hanno fatto a vario livello, ma il dato di fatto oggettivo è che dal 2008 al 2015 emerge in tutta la forza nelle prime analisi che studiano la legacy di politica economica del Presidente degli Stati Uniti Obama, gli Stati Uniti hanno avuto la forza di tornare alla crescita economica, l'Europa no. E l'Europa non avrà un futuro Se continua a immaginare semplicemente di puntare sui mercati emergenti, a maggior ragione se questi mostrano dei segnali di rallentamento in prospettiva, salvo poi non investire su se stessa, come una parte maggioritaria del pensiero politico, culturale ed economico europeo ha voluto fare in questi anni. Una sola precisazione: una parte maggioritaria del pensiero politico economico tedesco e centroeuropeo, perché in realtà da altre parti, Francia, Italia, si è sempre detto attenzione, non puoi puntare solo sulla crescita dei BRICS e non investire dentro l'Europa, non far ripartire i consumi interni. Ma i paesi, diciamo, guidati dalla Germania ritenevano no. Si può pure deprimere la domanda interna, cosa che è stata fatta, i consumi interni, il potere d'acquisto, perché tanto chi è sano ha le imprese belle che esportano e gli altri devono fare le riforme e fare i compiti a casa. Piccolo problema adesso che tu esporti meno, come la mettiamo? Visto che il dato era incredibile, quello di ieri sulla Cina, meno 20% di importazioni in Cina, quindi la Cina ha importato il meno 20% in meno. Ti tocca renderti conto che esiste anche il mercato unico europeo, che è ancora un bel mercato unico, perché è una delle aree più ricche del pianeta, piace o non piace, nonostante tutto, e che forse diversificare un po' di più anche per le imprese tedesche, non solo, conviene. Ma finché andava bene così, i cittadini europei, soprattutto del sud Europa, potevano tranquillamente continuare a impoverirsi per quello che riguardava l'Europa. Andiamo all'Italia invece, l'Istat che rivede le stime a settembre sull'inflazione più 0,2% su base annua contro uno 0,3%, quindi più bassa del previsto. La spesa, l'inflazione sul calo della spesa a settembre ha fatto più 1,2%, i vegetali freschi più 13,5% rispetto all'anno prima, sono schizzati, ed ecco perché il calo della spesa ha fatto più 1,2%. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. La firma oggi è del vice direttore Alberto Rioli. Vi ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Rioli. L'Istat ha rivisto a ribasso le stime per l'inflazione di settembre, e diciamolo subito, non è una buona notizia. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, diminuisce infatti dello 0,4% su base mensile e aumenta dello 0,2% su base annua. La stima preliminare invece si era assestata a più 0,3%. Con la correzione a ribasso di oggi, quindi, si registra lo stesso tasso tendenziale dei tre mesi precedenti. Quindi significa che siamo in una fase, per così dire, di stagnazione. Per l'Istituto Nazionale di Statistica l'inflazione acquisita per il 2015 scende così a più 0,1 ed era più 0,2 ad agosto. Il cosiddetto carrello della spesa, con i prezzi dei prodotti ad alta frequenza di acquisto, risulta anch'esso stazionario in termini congiunturali e registra una flessione dello 0,3% nei confronti del settembre 2014. Ci sono motivi anche squisitamente statistici di taratura del campione, ma che non cambiano la sostanza del dato diffuso oggi. Al netto degli alimentari non lavorati e dei beni energetici, l'inflazione di fondo sale allo 0,8% ed era allo 0,7% ad agosto. Al netto dei soli beni energetici si porta allo 0,9%. Inoltre va segnalato che si amplia il divario tra beni materiali e servizi immateriali, per i quali il mercato segnala un maggiore fermento, visto che il tasso di crescita dei prezzi dei beni e dei servizi sale a più 0,9% contro lo 0,7% di agosto. Invece per i beni materiali si è registrata una flessione dello 0,5% che era dello 0,4% ad agosto. Per il resto, al di là del bombardamento dei numeri, la conclusione resta una sola: la ripresa è fragile, la domanda interna non decolla e non ci resta, visti anche i dati europei, rimanere aggrappati alle iniezioni di liquidità della BCE, che per ora è l'unico vero antidoto alla recessione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo sul meteo, pubblicità e poi parliamo del rapporto tra piccole imprese soprattutto e banche. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. 17:34 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevo, tema che torna anche per i dati ciclicamente, ma che vorremmo affrontare anche come consigli, le piccole e medie imprese soprattutto, e i rapporti con il mondo bancario. È venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Detone! Lei non mi vuole dare 100 milioni! Ma lei va a contare al suo nome, dottor Dio d'aiuto! Lei si contraddice! No, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni! Perché se avessi 1 miliardo me li darebbe 100 milioni? Certo! Certo! Ah sì, eh? Certo! Ma se avessi 1 miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni! 200! Tenga, 300 milioni! Qui! Tenga! Non li voglio neanche, me ne resta 700! Grazie tante! Non li voglio! Li mette in tasca! Non li voglio! Li mette in tasca! Se c'ho 1 miliardo mi dà 100 milioni! Allora, se io ho bisogno di una melanzana! Devo andare dall'ortolano, devo avere 1 miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano! Ce l'ha lei 1 miliardo di melanzane! Mai! Né di pesche, vedi, di quello che c'ho bisogno! Ma dove siamo arrivati? No, ma dove siamo restati, potremmo dire, in realtà, perché ogni tanto lo facciamo risentire ciclicamente, Tu mi turbi, il mitico Roberto Benigni agli albori, 1983. Insomma, dentro questo paradosso c'è tutta la critica, a mio avviso, nei confronti del credito bancario. Cioè, tu dai credito solo a chi ha già delle cose da ipotecare, diciamo, delle garanzie da mettere. La battuta è chiara: io non chiedo una melanzana se ho già 1 miliardo di melanzane a casa, chiedo una melanzana perché non ho melanzane. Allora, qui c'è il paradosso. Ovviamente, al di là della battuta, la banca deve perseguire, e non sempre lo hanno fatto le banche italiane, come dimostrano gli scandali di questi anni, oltre che alle altre banche, una sana e prudente gestione nell'erogazione di credito. Quindi tutto vogliamo tranne che la banca dia credito agli amici, come fatto in alcuni casi nel passato, ai salotti, come fatto in alcuni casi nel passato, e quant'altro. Da lì però poi a dire che per colpa di Basilea 2-3 la vendetta, per colpa di IAS, tu chiedi dei crediti così, o dei crediti, delle garanzie, scusatemi, così forti sui crediti da rendere quasi nulla l'operazione, ce ne corre. Allora, secondo l'ABI, i finanziamenti alle imprese sarebbero sostanzialmente stabili in agosto e avrebbero segnato un incremento del 16% nei primi 8 mesi del 2015, gli finanziamenti alle imprese. I dati di Banca d'Italia dicono una cosa un po' diversa. Allora, anche il presidente dell'ABI Patuelli dovrebbe iniziare a parlare con Banca d'Italia, forse. Perché? Perché ad agosto il credito al settore privato è diminuito dello 0,5%. Voi direte, beh, probabilmente sono diminuiti i mutui rispetto ai prestiti delle imprese. No, perché i mutui, o meglio, i prestiti alle famiglie, che nella maggior parte dei casi sono mutui, cioè ci sono anche altri prestiti, sono aumentati dello 0,3%. Quelli che sono calati pesantemente sono stati di nuovo i prestiti alle società non finanziarie, meno 0,8%. Poi ci può stare, magari abbia ragione l'ABI prendendo alcuni mesi, che siamo più 15% rispetto a un che cosa? Rispetto a un meno 80. In realtà non stanno ripartendo i prestiti alle imprese, e c'è un dato aggregato che citiamo ogni tanto, cioè il dato che riguarda l'utilizzo da parte delle banche dell'area euro dei fondi messi a disposizione da Mario Draghi, i famosi fondi che servono per essere girati direttamente alle imprese o alle famiglie, non per i mutui, TLTRO, vengono dati a tassi di interesse agevolatissimi, quindi sono molto convenienti come prestiti, che le banche possono chiedere alla Banca Centrale Europea, devono girarli alle imprese o alle famiglie, non per i mutui. Bene, ebbene, rispetto a un livello atteso di 70-80 miliardi di euro al mese per tutte le banche dell'area euro, siamo arrivati a settembre a un livello minimo di 18 miliardi. Vuol dire che le banche europee non stanno chiedendo questi soldi a sconto, perché costano niente praticamente, perché non sanno a chi prestarli, evidentemente, o non vogliono prestarli, o ritengono, siccome poi devi ridarli prima o poi alla Banca Centrale Europea, non hanno un motivo per prestarli, o forse preferiscono fare investimenti più sicuri. bot, titoli di azionari e altri derivati, e quindi non possono chiedere quei soldi alla BCE, perché Draghi è stato molto chiaro: li puoi avere solo se li giri alle imprese. Poi ci sarà qualcosa anche che sbagliano gli imprenditori, ecco perché dicevo un piccolo corso che ogni tanto facciamo per gli errori più comuni fatti dagli imprenditori. Valerio Malvezzi, consulente di finanza aziendale, docente di finanziamenti d'azienda all'Università del Piemonte Orientale e tra l'altro stato ex componente, membro della Commissione di Finanza della Camera, è uno dei docenti del corso Win the Bank, cioè batti la banca in senso positivo, cioè che sono stati ideati per insegnare alle piccole e medie imprese come negoziare con le banche in tempi di crisi, evitando anche errori che vengono commessi o per ignoranza da parte delle imprese o per, da questo punto di vista, abitudine, non ignoranza, perché si ritiene che quello non sia un errore. Malvezzi, buonasera. Buonasera a lei. Allora, si ritrova intanto in questi dati che stavamo raccontando, perché come sempre l'ABI, se tu ascoltassi l'ABI, in questi anni non c'è mai stato un problema, anzi le banche, è vero che le banche hanno una marea di sofferenze, 200 miliardi di euro di sofferenze, alcune delle quali dovute alla crisi, e in senso stretto, perché sono saltate per aria le aziende, 100.000 imprese hanno chiuso, la produzione industriale è sotto di un quasi 20% rispetto al 2007, in altri casi, perché quando il denaro, quando era facile prestare soldi, perché tanto poi giravi il rischio credito su prodotti derivati, cartolarizzavi e vendevi ad altri, anche le banche li hanno prestati in maniera leggera, in quei casi, non adesso. Ma Malvezzi, si ritrova? Io mi ritrovo totalmente in quello che lei ha detto, in particolare su due aspetti che lei ha toccato. Il primo è quello che io chiamo la regola della nonna, cioè quando ero un ragazzo mia nonna mi diceva una cosa che mi faceva tanto ridere, cioè che le banche danno sempre soldi a chi non ne ha bisogno. Prima abbiamo sentito Roberto Benigni, ma ci sono anche altri attori comici che hanno fatto successo su questi sketch. E questo è assolutamente vero. Poi crescendo ho imparato che c'è gente che ha preso anche il Nobel dicendo cose non dissimili. Ora, mia nonna aveva forse la terza elementare, ma aveva colto un elemento importante. Poi si può dire con termini inglesi, ma in sostanza la domanda che io faccio è: visto che le banche danno soldi a chi non ne ha bisogno, perché vai sempre in banca quando ne hai bisogno? È una domanda alla quale è difficile rispondere se uno non comincia ad interrogarsi sulle motivazioni per cui la banca non dà credito. E questa è la prima osservazione. Sui dati statistici, sa, qui c'è anche il discorso della media di Trilussa, no? Cioè di quell'attore dialettale. No, certo, la conosciamo bene. Allora, anche qui c'è più credito, c'è meno credito. Ma che cosa vuol dire? Cioè stiamo guardando dei dati assoluti o dei dati relativi? La sensazione che ho io è che ci siano dei prestiti aumentati, parlando con gli operatori, per le imprese medio-grandi con proiezione internazionale che hanno progetti... vabbè, è giustamente quelle le finanze. Però, viste le lamentele che riceviamo, il mondo delle piccole e medie imprese è ancora a bocca asciutta. Il che non vuol dire che tu debba prestare i soldi ai piccoli, perché delle volte essere piccoli vuol dire essere piccoli in tutto. Cioè ci sono piccoli e ci sono nani, lo spieghiamo molte volte. Il piccolo è uno che in realtà è ben inserito in una filiera del valore, ha degli ottimi fornitori, lui stesso è fornitore di gruppi medio-grandi proiettati all'estero, e quindi quello merita il credito. Anche se ha 20 dipendenti o 25, poi ci può essere quello che ne ha 60 di dipendenti, ma è nano, cioè ha una patologia, perché rispetto ai concorrenti vale un ventesimo, è da solo, non è nessuna filiera. Allora, la sensazione nostra è che oggettivamente le banche si fermino proprio sulle dimensioni, cioè quelle imprese che un po' più visibili, medio-grandi, proiettate all'estero, sì, un po' di... poi non riescono a valutare tra piccolo e nano. Sì, ma è così, cioè è più che una sensazione. Io non voglio dire la mia opinione, voglio dire l'opinione avendo parlato con decine di banche, quindi esprimo quella che è una opinione non mia, ma degli operatori di banca. Se parliamo per esempio del TLTRO, cioè della... possibilità che hanno le banche dell'area euro di prendere soldi a costo zero, esatto, quasi. Perché le ultime aste hanno avuto un calo e perché si sono quasi fermate? Ma per una ragione molto semplice, che dopo che tu hai saturato gli investimenti su tutte le aziende buone ed eccellenti, facendo poca fatica, facendo delle operazioni finanziarie in cui il direttore finanziario di una grande impresa ci guadagna perché invece di pagare il 3 paga, teniamo conto che hanno uno 0,5 più 10 punti base, quindi partiamo da un prezzo bassissimo. Ok. A questo punto, se tu pagavi il 3, vai a pagare lo 0,40 e voglio dire, hai fatto un'ottima operazione. La banca ha guadagnato e ha fatto il suo mestiere. I piccoli sono proprio in un mercato completamente diverso da questo qua. Quindi anche quando si esaminano i dati bancari, ricordiamoci sempre che l'80% certo. del credito in Italia... Ma infatti lei mi ha fatto una bella idea. Diremo all'ABI, come fece l'Istat quando non c'era queste polemiche continue sull'andamento dell'inflazione nel passaggio lira-euro, a noi risultava molto più alta di quello che l'Istat diceva. Avevano ragione tutti e due, nel senso che l'Istat prendeva l'inflazione di tutti i beni, compresi nel paniere, ed era bassa, cioè era alta ma non come la vedevamo noi, era il 3-4% se non ricordo male. Poi quando l'Istat si è messa a guardare come andavano i beni a maggior consumo, i beni alimentari, quella che adesso chiama l'indice del carrello della spesa, si è accorta che in effetti 2-3 punti almeno in più di inflazione lì c'erano rispetto alla media, perché se tu metti assieme il ristorante con il tablet, certo. Diciamo il bar o il supermercato con il televisore Apple, è chiaro che non, la media sarà sempre bassissima. Ora sarebbe il caso che fosse l'ABI ci desse i dati disaggregati tra prestiti per le medie grandi e prestiti per le piccole, vediamo se i dati sono così, perché se no questa è veramente una media di trilussa. E però vediamo anche i 10 consigli rapidamente Malvezzi dopo il traffico. 349-238-6666 per gli sms, al di là di quello che le banche dovrebbero fare, anche le responsabilità di chi va a chiedere il prestito dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Focus Economia. Minuti. Allora, Valerio Malvezzi, i principali, il decalogo degli errori che compiono gli imprenditori quando vanno in banca a chiedere i finanziamenti o a rinegoziarli. Guardi, molti mi chiedono, come dire, quali sono gli errori ricorrenti. Gli errori, perché, è per questo che lei è qua. Certo, ma lo chiedono gli imprenditori stessi, perché il punto fondamentale è che qualcuno ha l'impressione che il rating sia qualcosa di oggettivo, no? Ancora ieri c'era un consulente che diceva: se un'impresa non ha i numeri, allora è inutile che vada in banca. Sì, ma il punto non è i numeri in una logica ex post. Allora facciamo così, io le faccio le domande e lei mi dà le risposte. Allora, prima domanda: è vero quello che sostengono molti direttori di filiale o a capi area, che loro hanno le mani legate da Basilea 3, Basilea 2, Basilea la vendetta, dalle regole europee, da quello che ha anche negli stress test abbiamo visto, cioè un approccio un po' troppo anglosassone, centro europeo, in cui viene penalizzata la banca che presta i soldi al piccolo imprenditore rispetto alla banca che li mette in investimenti finanziari? È sicuramente vero, ma quanto c'è di scusa in questo? Ma partiamo da un presupposto: che nessuna banca ha l'interesse a non vendere, perché questo è il primo punto, cioè il dire che ho le mani legate è una spiegazione parziale, cioè nel senso che se tu sei un direttore di banca e non fai un'operazione avrai dei motivi per cui finanziariamente quell'operazione ha un costo tale per cui in termini di accantonamento non giova fare l'operazione. Quindi fondamentalmente direi che è vero, cioè ci sono dei parametri oggettivi nei quali le banche sono legati, cioè se uno mi chiede di rispondere in modo netto non vogliono o non possono, se questo è il senso della domanda, prevalentemente dico non possono. Non possono erogare il credito se non a certe condizioni. E questo spiega, tra l'altro, perché le aste, come lei diceva poco fa, non tirano più, perché non riescono più ad erogare a quel mercato che è quello che più ne ha bisogno. Attenzione che nei dati statistici di prima, oltre che farsi dire la distinzione piccole e media, che largo circa dovrebbe essere 80 le grandi e 20 le piccole medie. 80 cosa, mi scusi? Il credito totale nell'80% va alle grandi imprese e il 20% va alle piccole medie, ma il problema è che le piccole medie sono il 99% e le grandi sono l'1%. Danno da lavoro, danno posti di lavoro, le piccole medie, è all'80% del mercato. Certo. Quindi stiamo parlando di un disallineamento, di un mismatching molto grave. Troppo per pochi e poco per troppi. Sì, okay. Secondo me è così. Allora, questo è il mondo bancario, però siccome non posso cambiare testa alle banche né andare da, come si chiama quell'italiano, io dico per finta, che sta all'EBA, adesso mi veramente il nome, ogni volta, perché è più centro, è più anglosassone, è più mitteleuropeo di molti italiani. Ha fatto una riforma, vanno a valutare anche complici di stress test, ma vanno a valutare gli impieghi bancari penalizzando di fatto quello che è l'investimento in imprese e avvantaggiando l'investimento in strumenti finanziari, come se il 2008 la crisi non ci fosse l'avessero fatta le imprese che risultavano insolventi e non i derivati tossici, drogati, messi in giro anche delle volte da drogati, non solo come derivati, e la finanza strutturata e cartolarizzata. Si chiama Enria, ecco, Enria è italiano, però evidentemente dimentica molto come funziona l'economia reale della madrepatria e di altre economie reali, cioè fatte di piccole imprese. Non è che l'unico modello siano i grandissimi gruppi. Malvezzi mi dà il decalogo degli errori che vengono fatti dai piccoli imprenditori che non hanno i consulenti belli pagati tanto come quelli dei grandi. Sono piccoli, quindi sono con la testa bassa a lavorare, hanno anche meno possibilità delle volte per formarsi. Gli è stato detto, sbagliando negli anni passati, anche da una certa retorica confindustriale, che piccolo era bello, invece piccolo è bello, nano è terribile, per cui bisogna capire bene in termini di dimensioni i 10 errori che commettono. Ma allora, il primo è pensare che il rating sia un qualche cosa di come dire esogeno, quindi parti dal presupposto che dipende da te. E questo è già un primo salto. Voto che la banca ti dà dipende da te. Sì, vabbè. Il voto che la banca ti dà dipende da te, okay. E questo in pratica però che cosa vuol dire? Vuol dire che tu non puoi pensare di cambiarlo dopo che hai chiuso il bilancio. Cominciamo a dire che lo cambi prima di chiudere il bilancio. Quindi le politiche di bilancio le devi fare considerando che c'è una logica fiscale, e questo lo sappiamo tutti, ma c'è anche una logica bancaria, e che le due logiche sono... Cioè, se tu hai bisogno, sai che dovrai chiedere un prestito, cerca di fare il bilancio in modo tale che porti, diciamo, a un miglior voto nel tuo rating. Senta, io tutti i giorni vedo la situazione contabile aggiornata e poi vedo il bilancio dopo qualche mese. Situazione contabile aggiornata, utile ante imposte 700.000, situazione di bilancio depositato, utile post imposte 38.000. Allora lei capisce che c'è una fiscalità. Allora, se noi non ci diciamo questo... Cosa vuol dire con fiscalità? Faccio capire tutti. Fiscalità vuol dire che ci sono ovviamente delle norme che consentono di fare le cosiddette politiche di bilancio. Ci sono delle voci che tu puoi portare integralmente a costo, oppure le puoi portare in ammortamento su più anni, per esempio fino a 5 anni ci sono costi immateriali e cose di questa natura. Se tu vuoi uscire in un modo e quindi pagare delle tasse, fai una politica. Se vuoi pagarne di meno... Sì, il problema è che tu dici, abbellendo il bilancio per motivi fiscali, per pagare meno tasse, se poi il tuo rating risulterà, il tuo voto risulterà più basso. Questa è una delle prime motivazioni. Se devi chiedere un prestito bancario. Andiamo rapidi che il tempo è poco. Sì. La seconda considerazione fondamentale è capire che la banca non è una, ma sono due. Quindi c'è una doppia anima. Quando tu hai la mentalità perché qualcuno ti dice meno cose dici meglio è, stai cominciando a ucciderti da solo. Cioè il, come dire, responsabile commerciale di una banca è quello che ha l'intenzione di vendere. Diciamo che teoricamente ci guadagna anche lui. Ci guadagna lui. Per cui lui ha l'interesse, allora presentati meglio e meno reticenze nel dire esattamente la tua situazione contabile. La trasparenza. No, io potrei dire che il secondo punto è non scambiate la banca per la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate. No, anzi, devi scambiarla per l'avvocato. Cioè quando tu parli con il responsabile... Per il commercialista forse in quel caso. Ma insomma, è il tuo difensore, perché se la banca ha due teste... C'è una torre d'avorio che si chiama ufficio fidi, ci sono delle banche in cui c'è una forte separazione tra le due, ci sono vari modelli di banca, ma quello che ti difende è quello al quale devi raccontare le cose, cioè tu gli devi dire io ho dei problemi con Equitalia ma sto ratizzando, perché se non lo fai lo scoprono loro dopo, quello è un errore. No, questo no? È molto importante, ecco. Cioè così come voi volete che la banca si fidi di voi, fidatevi voi della banca, sì. Questo lo dico obiettivamente. Andiamo avanti, dai, rapidi. Terza cosa è per esempio non andare con il metodo, come dire, del nonno, no? Cioè del brochure camerale e bilancio. Cioè, ecco, questo metodo è un metodo ex post, voglio dire, se tu vai con il bilancio che dà dei dati storici e vai a farti dare dei soldi su una situazione prospettica... Vabbè, fare le proiezioni non in passato, sì. Possiamo dire, perché molte volte dico guarda che la mia azienda avviene da 20 anni di grandissima storia, sì, ho capito, è cambiato il mondo e chi se ne frega. Vediamo le prospettive che avete sui mercati dove c'è maggior valore aggiunto, sui mercati che crescono, sui mercati devi interno... Devi scrivere, in banca non puoi andare a parlare. Cioè se tu vuoi risparmiare fatica perché porti il bilancio perché tanto fai una telefonata al commercialista, è comodo ma non è utile. Perché la brochure, il camerale e il bilancio oggi servono per non fare traballare la sedia del bancario. Cioè voglio dire, sono elementi necessari ma non sufficienti. Chiaramente la cosa... non sto parlando solo del rinnovo. E quindi veniamo al business plan famoso, cioè mostra quello che sono le tue prospettive future, non solo quello che hai fatto nel passato. Parla di cassa. cioè parla di denaro, perché se sei a comprare denaro non puoi parlare del reddito dell'anno scorso, devi parlare del denaro di dopodomani. Allora guardi, siccome mi arrivano moltissimi messaggi, resti ancora con noi oggi R24, poi mi deve dare gli altri 6 però rapidamente, Malvezzi, gli altri 6 consigli, e poi facciamo borsa e spending review alla vigilia della legge di stabilità. GR24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. State ascoltando un programma offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Vorrei concludere, visti anche i numerosi messaggi, alcuni anche di critica, ci mancherebbe, che arrivano, con Valerio Malvezzi, i primi 4 errori o, insomma, da non commettere quando un imprenditore va a chiedere un prestito bancario, a maggior ragione se è piccolo e medio. Andiamo avanti velocemente, qual è il quinto errore che fanno? Quinto è una cosa molto italiana, gli italiani amano Vasco Rossi, cioè vogliono una vita spericolata. Ecco, questa politica nel 2015 non piace, cioè sono pieni i casi di ho fatto la pizzeria e se faccio una pizzeria mi dà un moll di 100.000, faccio 5 pizzerie e mi dà un moll di 500.000. Ci sono coloro che consigliano queste cose, ma è una logica economica, non finanziaria, perché... per quelle cose che lei diceva pochi minuti fa, dal momento che ci sono dei paletti e quindi l'equity non può crescere in modo infinito, questa moltiplicazione dei pani e dei pesci non funziona. E quindi è il sesto e il settimo punto, se ho ben capito, nel senso che da un lato le banche non hanno questo grande amore per chi moltiplica il finanziamento di progetti su vasta scala, cioè non tutti si chiamano Starbucks o McDonald's o Italy, con le difficoltà che hanno avuto anche i grandi colossi. Esiste una crisi che si chiama crisi da eccesso di crescita, che si studia nei manuali di economia, esatto. Cioè cresci troppo, come nelle persone fisiche, cioè quello che cresce troppo ha un problema di disfunzione, ce l'hanno anche le imprese. Non è che aumentare il fatturato sia sempre un bene, c'è gente che è morta aumentando, morta come attività di impresa aumentando i fatturati, e quindi no una vita spericolata e no a moltiplicare i pane e pesce. Ottavo, nono e decimo consiglio, via. Ma il punto fondamentale è, devi sapere una cosa fondamentale, cioè non andare a suonare il campanello della banca, che è quello che fanno tutti. Cosa vuol dire non andare a suonare il campanello della banca? Che quando ho bisogno di soldi, quando sono con l'acqua alla gola, faccio il giro delle sette chiese, vado dalle banche. C'è un segnale molto chiaro per le banche: se uno suona il campanello da me, attenzione, e non è una startup, sto parlando di un'azienda che viene, certo, da un'altra banca, psicologicamente la prima domanda che si fa l'uomo di banca non te la fa in questo modo chiaro: ma perché sei venuto da me? Ed è la domanda più difficile. Cioè, che potremmo dire, non andare in banca quando si ha l'acqua alla gola. Ora, no. È chiaro che uno in ospedale ci va anche quando è in emergenza, e va in banca anche quando c'è in emergenza per motivi esterni. Problema che, così come un medico ti dirà sempre, vieni a fare un controllo preventivo, non arrivare dopo, anche il bancario, se voi andate prima, il direttore di filiale, e mostrate che all'interno di un progetto di sviluppo così, c'è anche bisogno di una componente di equity, di credito bancario, è un conto. Se tu vai dopo che il progetto l'hai fatto partire, ti sei reso conto che hai fatto il passo più lungo della gamba, oppure non hai il ritorno sperato, inizi a naspare, vai in banca, intanto sei in fase debole di contrattazione, e poi non è un bel segnale, se ho ben capito. Esattamente così, guardi che è pieno ogni giorno di casi in cui arriva qualcuno col progetto del secolo. Il progetto del secolo è: fatturo 3 milioni, vado in banca con un piano di investimento da 10 milioni. in una nuova banca? E non andarci, perché quando suoni quel campanello, immediatamente la domanda che si pone, poi ci sono 10 modi diversi per porla, ma la domanda sua interna è: ma cosa è venuto da me a fare? Perché quell'altra banca non l'ha finanziato? Qual è la soluzione? Ci sono delle tecniche per le quali si entra nelle banche per gradi, e c'è tutto un discorso molto articolato che ora non posso fare per ragione di tempo. Lei mi ha chiesto quale errore fare. Non andare col progetto del secolo. Questa è una cosa fondamentale. Ultimo punto, liquido chiama liquido, che vuol dire? Liquido chiama liquido vuol dire una cosa molto semplice. Se tu chiedi a un uomo di banca perché hai finanziato questa operazione di uno che ti ha chiesto, che ne so, di comprare 10 camion che hanno un certo valore, molto probabilmente ti dirà: guarda, perché io ho guardato l'estratto conto, il saldo contabile dei della cassa, chiamiamola così, a breve, aveva magari, 40.000 euro di fido ed era sopra di 70.000. Questo vuol dire liquido chiama liquido, vuol dire che la maggior parte degli imprenditori italiani, lei sa benissimo la storia, cosa fanno? Fanno il rinnovo dei fidi cosiddetti a breve, che poi incidentalmente sono i fidi a revoca, insomma il fido di cassa, e lo trasforma in un mutuo. Oggi, nel 2015, c'è una attenzione morbosa ai saldi finanziari dei conti correnti. Il mio consiglio è: teneteli attivi, perché è esattamente l'opposto di quello che fanno tutti. Hanno dei fidi, li tengono sistematicamente a tappo, li vogliono rinnovare, li vogliono trasformare in un mutuo, e questo dal punto di vista della centrale dei rischi è drammatico, e dal punto di vista del costo finanziario vi distrugge il bilancio. Chiarissimo, la riavremo ospite, perché vedo anche molti, non potevo rispondere a tutti, ho cercato di sintetizzare un po' a grappolo le varie domande che arrivavano al 349-238-6666. Grazie anche a Valerio Malvezzi. Grazie a voi. E adesso la borsa, meno 1%, meno 0,95 per la precisione della chiusura di Milano, meno 1,17 Francoforte, meno 0,70 Parigi, meno 1,15 Londra, meno 0,70 il Dow Jones. Oggi vi dovrete accontentare di me, le borse risentono in generale, e lo vediamo anche nei settori, nei titoli, del dato di ieri a cui facevo riferimento, della Cina, il meno 20% nelle importazioni cinesi. Non ci sono grossi altri spunti oggi sui mercati europei, quindi debole di nuovo il lusso, Moncler meno 3,20%, ancora su questo fronte Luxotti che perde l'1,30%. Yux Net a Porter meno 3%, si salva tra i titoli più legati alle esportazioni verso la Cina nel settore lusso Ferragamo, che chiude invariato. Invece per quello che riguarda Pirelli è sostanzialmente stabile, più 0,13%, è andata in porto l'OPA sul titolo e il titolo è fermo sostanzialmente a quei prezzi, tant'è che appunto il titolo Pirelli oggi ha chiuso a 14,97, come ha praticamente quasi aperto, il riferimento precedente era 14,95. Bene Enel Green Power più 0,80%, Ansaldo STS più 0,40%. Su Enel vale la pena segnalare il fatto che abbiano avviato una centrale idroelettrica in Colombia, che è partita, l'opera si è conclusa prima del previsto. Altri titoli: Buzzi c'è meno 2,50, Azimut meno 2,36, Mediolanum meno 2,14, Mediaset meno 2 come Atlantia e Generali, Finmeccanica meno 1,70 come Mediobanca, e Unicredit 1,5% ha perso ST Micro Electronics. Migliore e peggiore in assoluto, Digital Magix più 7%, Wolfila più 5% come di me, Group e Set, pagine gialle sul risparmio. Peggiori Tech Value meno 4,50, Digital Brothers meno 4,30, SafeBank meno 4,20, Pininfarina meno 3,5%. Traffico e poi ciò che manca nella manovra in termini di spending review, quindi di risparmi sulla spesa pubblica. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento Focus Economia. Confermo che noi porteremo una cifra di 10 miliardi di riduzione di spesa, prima di tutto per fugare qualunque dubbio. Secondo punto importante, l'azione che stiamo conducendo adesso non è di riduzione di spesa, è di revisione di spesa, che è una differenza sottile ma molto importante. Noi abbiamo lanciato 15 progetti in tutte le aree dello Stato e della pubblica amministrazione che cambieranno il modo di funzionare il Paese e la pubblica amministrazione, portando più efficienza, più produttività, migliori servizi e anche minori costi. Quindi l'ottica è un'ottica di 3 anni, poi ovviamente l'anno prossimo dobbiamo portare 10 miliardi, lo porteremo, però l'ottica è di cambiamento strutturale, di processi, di modo di lavorare, di cultura, di organizzazione, in tutte le aree. Così lo scorso 6 giugno il responsabile della spending review, Yoram Gutgeld, che ha preso il posto di Carlo Cottarelli, c'è anche Roberto Perotti, economista da Bocconi, ma adesso vi arriverò, il quale confermava che l'obiettivo di Cottarelli, lo ricorderete, commissario della revisione della spesa, di 10 miliardi veniva confermato. Così non è, perché già sappiamo che dalla revisione della spesa arriveranno forse 8 miliardi, dico forse perché da quello che capiamo sembra che l'obiettivo sia stato ulteriormente abbassato a 5 miliardi e non ottenuti con una vera spending review. Anche qui vediamo di capirci. Ha ragione Gutke nel dire che le revisioni della spesa, come chiarivamo all'inizio del programma, che funzionano tipicamente nei paesi anglosassoni ma non solo, non vanno fatte, diciamo, in maniera brusca, brutale, perché rischiano di essere dei tagli lineari che poi riportano dopo poco tempo la spesa ai livelli da cui si era partiti, perché sono delle compressioni di spesa, non sono delle vere revisioni di spesa. Tu comprimi per un po' la spesa e poi questa ti riesplode perché hai bisogno di macchinari, di beni, di servizi e quant'altro. E quindi è giusto che venga affrontata in maniera non solo graduale ma molto attenta e specifica, con un fine tuning, un elemento di precisione, di andare a intervenire chirurgicamente là dove serve, lasciare stare tagli dove i tagli non servono. Però diciamola tutta, da 10 a 5 miliardi la delusione può essere tanta, ma soprattutto da quello che abbiamo capito questi 5 miliardi non arriveranno da interventi mirati, certosini, chirurgici, su voci di spesa, lasciando fuori, arriveranno dal classico taglio lineare al budget dei ministeri, copyright Giulio Tremonti, e quindi meno 3% ai ministeri, poi i ministeri si arrangiano come ottenere questo meno 3%, che vuol dire non toccare gli stipendi di alcuni dirigenti, non toccare a volte le consulenze, erogare, cioè un eccesso di discrezionalità. Non vengono toccate, a quanto abbiamo visto, le 8.000 partecipate. Cottarelli disse, prima di tornare al Fondo Monetario Internazionale, guardate che sono 8.000 le partecipate, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dallo Stato, devono scendere a 3.000. Perché ce ne sono, devono scendere a meno della metà, perché di queste almeno 3.000 hanno meno di 6 dipendenti e in molti casi non hanno mai presentato un bilancio. Si potrebbe risparmiare 1 miliardo da lì. Manca l'appello anche mancano l'appello i 700 milioni di risparmi di costi della politica, nel senso che non li ho visti tra le voci. Manca l'appello anche la riduzione dei centri appaltanti, cioè chi può indire una gara d'appalto per una fotocopiatrice, per una TAC, per un computer? Beh, da noi sono 32.500 soggetti pubblici che possono indire una gara d'appalto. Ovviamente se ognuno si compra la sua fotocopiatrice, usando una battuta, i famosi risparmi di scala non ci sono. Si era detto portatele a 3.000, non a troppe poche, se no tagli fuori tutte le piccole imprese, ma almeno a 3.000. Di questo non ho visto nulla, ma chiedo conferma a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera a voi. Noi, cioè, abbiamo detto in tempi non sospetti, forse la cosa che più manca, al di là della partita da giocarsi con l'Europa, dove secondo me l'Italia ha ragione nel dire non ci puoi trattare come se fossimo una Spagna, una Francia qualunque, perché la Francia le riforme sta iniziando forse a farle a un deficit molto alto, la Spagna ha chiesto cose irraggiungibili, noi dacci qualche margine in più. Forse il vero grande assente non è questa spending, chiedo. Assolutamente sì. Io credo che Renzi si appresti a presentare una legge di stabilità che accontenta la destra e la sinistra. Di Bosco e di Riviera, insomma. Sì, voglio dire, su cui sarà difficile che diciamo ci siano delle grandi opposizioni. Cercherà di venire incontro alle esigenze delle imprese, c'è una prevista riduzione del carico fiscale. E detto questo, manca la parte della spending review che secondo me è più verso i 5 miliardi che non verso i 7-8, ed ottenuta con il metodo di cui hai detto tu prima, e quindi con non dei veri e propri tagli, diciamo, come erano stati immaginati, ma dei tagli lineari sui ministeri e ad esempio sulla sanità, più che altro, diciamo, evitando un aumento di 3 miliardi che sarà limitato a 1 miliardo del fondo sanitario nazionale. Quindi è una ma manovra, risultano, diciamo, anche a te queste tensioni tra l'altro commissario Roberto Perotti, che è economista alla Bocconi, che avrebbe minacciato le dimissioni anche? Io adesso non so se ha minacciato le dimissioni, certamente quello che posso dire è che c'è una certa insofferenza da parte di Perotti di come sono andate le cose, e anche lo stesso Gutgel credo che sia in una qualche difficoltà, perché ovviamente il piano da 10 miliardi che è stato più volte annunciato nel corso dei mesi scorsi oggi è tornato nel cassetto di fatto, quindi questo è un dato anche politico interessante. Allora, ha ragione l'ascoltatore che mi scrive dicendo: guardate che dovete chiarire che spending review vuol dire revisione della spesa, non taglio della spesa. Esattamente, forse mi sono spiegato male, quello che cercavamo di dire prima. Revisione della spesa, paradossalmente, può anche voler dire che tu aumenti la spesa in alcune voci, da 100 la porti a 120 e in altre la porti da 100 a 20. Questa è una vera revisione della spesa, che poi dovrebbe portare a un risparmio complessivo, comunque, non un taglio lineare, ma un risparmio, sì, o diciamo che tutti i 180 miliardi di spesa per beni e servizi della pubblica amministrazione italiana sono intoccabili, sono solo quelli non per gli stipendi e per gli acquisti, per capirci. Però è vero che il cuore di una revisione della spesa non è solo il taglio, altrimenti fai meno 3 su tutto e arrivederci, ma è andare a verificare bene là dove si può risparmiare, anche portando a zero una spesa, là dove invece non bisogna toccare o addirittura investire. Senti, questo, Guido, da quello che ho capito, verrà coperto in parte con la voluntary disclosure da 3 miliardi. Ora, a me sembra che più si avvicinano le ore, visto che domani è il giorno X per la legge di stabilità, come si chiama adesso la finanziaria, più emerga con forza che questa finanziaria si basa solo su una cosa, diciamo, la tolleranza, i margini che ci darà l'Europa. Esattamente, questa è una legge finanziaria nel complesso espansiva in deficit che si fonda sulla previsione che il confronto con l'Europa porterà all'autorizzazione di margini di flessibilità di bilancio tali per cui riusciamo a coprire, diciamo, le nostre esigenze. Questo si tratta, ci sarà un braccio di ferro in Europa, va detto anche che Renzi si presenterà a Bruxelles dicendo che sta continuando a portare a casa riforme importanti, ultima quella la riforma costituzionale, e quindi metterà sul piatto anche questa ultima conquista che lui ha avuto. E poi cercherà di ottenere quello che al momento sembra difficile ottenere, ad esempio quella flessibilità che dovrebbe passare sotto la voce di emergenza migranti, pari allo 0,2% del PIL, che diciamo è tutto un argomento, diciamo, nella migliore delle ipotesi da discutere con Bruxelles, mettendo nel conto un negoziato molto difficile. Sì, devo dire che probabilmente il governo, anzi sicuramente il governo ha maggiori informazioni, e il ministro Padoan e il commissario europeo Moscovici si sono incontrati più di una volta in queste ultime settimane, quindi immagino che non andrà così alla cieca, avrà avuto qualche segnale di carattere politico. Però resta il fatto che al di là dell'ottenere via libera da Bruxelles, che tra l'altro a mio avviso è importante, noi per anni abbiamo detto che bisognava andare a Bruxelles chiedendo dei margini per far ripartire l'economia, figuratevi se ci lamentiamo adesso che il governo lo fa. Detto ciò, non confondiamo quella che è la necessità di far quadrare il cerchio sulla legge finanziaria per quest'anno, quindi i 28 miliardi che varrà, con l'obiettivo di medio termine della spending review, nel senso, le due cose possono stare assieme. Tu puoi anche aver bisogno quest'anno di chiudere, però non mollare il colpo sulla spending review e sulla lotta all'evasione, perché le due cose vanno di pari passo. Se tu fai una riforma credibile dei costi della pubblica amministrazione, sei anche più credibile nel combattere l'evasione fiscale, in questo senso, perché lì ci giochiamo, se no il prossimo anno siamo capo a 12, non è che poi ogni anno tornare dall'Europa e dire: beh, abbiamo fatto un'altra riforma, dacci un altro margine, perché non funziona così il gioco. Fermo restando che l'Italia fa bene a farlo. Guido, domani vedremo quale sarà, vedremo, quale sarà il margine che verrà chiesto all'Europa, se 0,3, 0,4, 0,7, in base agli obiettivi. Grazie intanto all'editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni, Guido Gentili. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.